Una giornata nello Helsingland, giovedì 16 giugno. Lo Helsingland, che Nils attraversò il giorno dopo, portato dall'aquila, aveva un aspetto primaverile. Ai suoi piedi si svolgeva un panorama di boschi e di rupi, tra i quali si insinuava una valle chiara da cui se ne dipartivano altre, ora brevi e anguste, ora lunghe e ampie. E Nils aveva l'impressione di avere sott'occhio una grande foglia verde con tutte le sue nervature. Nel mezzo della valle centrale scorreva un fiume che in certi punti si allargava a formare laghetti, campi e prati, fattorie ben costruite, chiese con attorno i villaggi, un paese davvero splendido. Era il giorno in cui, secondo l'usanza, i massari dello Helsingland inviano le loro bestie ai pascoli d'alta montagna e verso i boschi da ogni parte si vedevano avviarsi lieti cortei. Dal fondo cupo delle foreste echeggiava il richiamo dei pastori e il tintinnio dei campanacci. Verso sera, Gorgo e Nils giunsero a una radura dove sorgevano due o tre casupole grigie e una piccola stalla con un recinto, entrando nel quale le mucche muggivano, tutte felici, riconoscendo il pascolo estivo, e subito si mettevano a brucare l'erba tenera e saporita. Gorgo era convinto, in base alle informazioni raccolte qua e là, che il vecchio menestrello si trovasse tra coloro che andavano ai pascoli. Dopo aver sorvolato la regione in tutti i sensi, al tramonto l'aquila giunse a una baita isolata dove era arrivata da poco una mandria. Gli uomini stavano tagliando legna, le ragazze mungevano. «Guarda laggiù!» disse Gorgo. «Credo sia lui!» Scesero a raso terra e Nils ammise che l'aquila aveva ragione. «Ho mantenuto la mia promessa», disse Gorgo. «Adesso pensa tu a scioglierti dalla tua». Nella baita il lavoro era finito, ma nessuno aveva voglia di andare a dormire perché il cielo era ancora chiaro e la mandriana più vecchia propose: «Mi sembra sciocco starcene qui in silenzio a non far niente quando abbiamo con noi un narratore come Clement Larson. Se la storia che ci racconta è bella, gli regalerò la sciarpa di lana che sto facendo». La proposta fu accolta con entusiasmo e Clement. «La vicenda che vi narro, cominciò, è accaduta a Stoccolma mentre ero nello Skansen, un giorno che soffrivo di nostalgia». E continuò riferendo la storia del coboldo, da lui riscattato per salvarlo dalla prigionia e dall'umiliazione di essere chiuso in gabbia e scambiato per una bestia rara. E soggiunse che la sua buona azione era stata immediatamente ricompensata. L'uditorio ascoltava con crescente stupore e quando Clement giunse al punto in cui il valletto della casa reale gli aveva portato il bel libro rosso, le ragazze lasciarono cadere il lavoro a maglia cui erano intente e guardarono attonite e ammirate colui al quale erano accadute avventure così straordinarie. Ben altra era la considerazione di cui godeva adesso Clement. Aveva parlato con il re e ciascuno gli chiese che cosa ne avesse fatto del coboldo. «Non ho avuto neanche il tempo di comprargli la ciotola azzurra, ma ne ho dato l'incarico a un vecchio lappone e non ne ho saputo più nulla». Aveva appena pronunciato queste parole che una piccola pigna venne a colpirlo sulla punta del naso. In apparenza nessuno l'aveva lanciata. «Clement!» esclamò la vaccara anziana. «Si direbbe che i piccoli coboldi ascoltino ciò che diciamo. Non avresti dovuto affidare ad altri la cura di pensare alla ciotola azzurra del coboldo». Il Westerbotten e la Lapponia. Il sogno. Domenica 19 giugno. Nils alzò il capo e si guardò attorno ancora assonnato. Non riconosceva il luogo in cui si trovava, non aveva mai visto la valle e le montagne che la serravano da tutti i lati, né il lago circolare che si apriva nel mezzo, e tantomeno betulle così stente come quelle sotto le quali era steso in quel momento. E dov'era l'aquila? Volse lo sguardo attorno, ma non la vide. Tornò a sdraiarsi e chiuse gli occhi, cercando di ricordare quel che gli era accaduto prima di addormentarsi la sera precedente. Gorgo aveva cambiato direzione e il vento l'aveva investito di traverso e Nils s'era reso conto che l'uccello aveva aumentato la velocità del volo. «Stiamo entrando in Lapponia», gli aveva detto Gorgo a un certo punto, e Nils aveva provato delusione alla vista di quelle sterminate paludi e di quei boschi senza fine. La monotonia del paesaggio gli aveva fatto venire sonno. Aveva detto a Gorgo che non ne poteva più e che aveva bisogno di dormire, anche se era presto per farlo. Gorgo era sceso a terra. Nils era stato gettato sul muschio, però l'aquila l'aveva subito riafferrato tra gli artigli e riportato in alto. «Dormi pure, pollicino!» aveva gridato. «Il sole mi tiene sveglio, ho voglia di continuare il viaggio!» E nonostante la scomodità della posizione, Nils si era addormentato e aveva fatto un sogno. Gli era parso di andare per un'ampia strada della Svezia meridionale, con tutta la velocità consentita dalle sue gambette. E non era solo. Accanto a lui marciavano fiordalisi, crisantemi gialli, steli di segale dalle spighe pesanti, meli curvi sotto il peso dei loro bei frutti, fagioli rampicanti carichi di baccelli e intere macchie di lamponi. Magnifici alberi, faggi, querce, tigli avanzavano lentamente in mezzo alla strada, non cedendo il passo a nessuno, in un orgoglioso fruscio di fogliame. Fragole, anemoni, trifoglio e non ti scordar di me correvano tra i piedi del ragazzo, il quale, guardando meglio, s'avvide che anche uomini e animali facevano parte della processione. Insetti volavano tra le piante, pesci nuotavano nei fossatelli lungo la strada, gli uccelli cantavano sugli alberi in cammino, bestie selvatiche e domestiche gareggiavano in velocità. E in mezzo a tutto quel formicolio di animali e piante procedevano esseri umani, questi con zappe e vanghe, altri con accette e falci, oppure con fucili da caccia e reti. Il corteo avanzava allegro e Nils non se ne stupiva da quando si era avveduto che a guidarlo era niente meno che il sole in persona, il quale rotolava sulla strada come un enorme testone raggiante di bontà e gaiezza e la sua chioma era formata da raggi multicolori. «Avanti!» gridava di continuo l'astro. «Nessuno si preoccupi finché sono qua io! Avanti, avanti!» «Mi chiedo dove il sole voglia condurci!» borbottò Nils tra sé. Uno stelo di segale che lo udì rispose: «Vuole condurci in Lapponia per muovere guerra al re del grande torpore!» Dopo un po', Nils s'avvide che nelle file si diffondeva una certa perplessità. C'era chi esitava, chi rallentava, chi si fermava. E rimase indietro il superbo faggio, il caprifoglio si fermò e con lui il frumento, e poco dopo lo fecero i rovi delle more selvatiche, imitati dai castagni e dalle pernici. Nils si guardò attorno stupito e s'accorse che non erano più nel sud della Svezia. La marcia era stata così rapida che si trovavano già nello Svealand. Proprio in quella la quercia cominciò a dar segni di inquietudine. Si fermava, faceva qualche passo, tornava a fermarsi. «Perché rallenta?» domandò Nils. «Ha paura del re del grande torpore», gli spiegò una giovane bionda betulla che avanzava tutta baldanzosa e allegra. Benché fossero molti rimasti indietro, il resto del corteo procedeva coraggiosamente. Il sole continuava a rotolare alla testa, sempre ripetendo con uno splendido sorriso sul bel faccione: «Avanti, avanti! Niente paura finché ci sono io!» Giunsero presto nel Norrland e allora il sole ebbe un bel sorridere e incitare. Il melo si fermò, lo stesso fece il ciliegio, l'avena restò indietro. Il ragazzo si volse verso di loro e chiese: «Perché non venite?» E loro: «Non osiamo, abbiamo paura del re del grande torpore che sta lassù in Lapponia!» Nils s'avvide che erano giunti finalmente in Lapponia quando notò che le file si erano assai assottigliate. Segale, orzo, fragole, mirtilli, piselli, lamponi erano rimasti fedeli sino a quel momento. L'alce e la mucca avevano proceduto fianco a fianco, ma ecco che adesso nessuno pareva più disposto ad andare avanti. Gli uomini proseguirono ancora per un tratto, poi quasi tutti rinunciarono e l'astro che li guidava sarebbe rimasto solo se altri compagni non si fossero aggiunti: cespi di canne, una folla di pianticini alpestri e poi lapponi e renne, civette bianche, pernici alpestri e volpi azzurre. A un tratto il ragazzo udì un grande rumore davanti a loro. Erano fiumi e ruscelli che fuggivano in massa. «Perché scappano così precipitosamente?» chiese. «Fuggono davanti allo stregone del grande torpore, il re che abita ai Fields», gli spiegò una pernice di montagna appena intruppata. In quella Nils si vide drizzare davanti un'alta parete tetra dalla cima dentellata e tutti indietreggiarono sgomenti, ma il sole, Volse il faccione radioso verso la parete e allora ci si avvide che non era un bastione che sbarrava loro la strada, ma una stupenda montagna i cui picchi si succedevano in ranghi rosseggianti alla luce dell'astro, mentre i pendii erano ora diventati di un azzurro pallido con riflessi d'oro. E rotolando all'insù, verso la sommità, il sole esortava: «Avanti, avanti! Non c'è pericolo finché ci sono io!» Ma durante la salita fu abbandonato anche dalla giovane e ardita Betulla, dal pino vigoroso e dall'abete Caparbio, e poi dalle renne, dai lapponi e dalle canne, e sulla vetta si ritrovò accanto solamente il piccolo coboldo Nils Holgersson. L'astro rotolò verso una grotta dalle pareti ricoperte di brina. Nils stava per seguirlo, ma uno spettacolo terribile lo inchiodò dov'era. In fondo allo spacco stava seduto un vecchio troll. Il corpo era di ghiaccio, di ghiaccioli i capelli, il mantello era di neve, ai suoi piedi erano distesi tre lupi neri che alla vista del sole si alzarono spalancando le fauci. Dalla gola dell'uno uscì un freddo penetrante, dalla gola del secondo un tagliente vento di tramontana e la gola del terzo vomitò nere tenebre. «Quello è senza dubbio il re del grande torpore, con il suo seguito», si disse Nils. E rimase dov'era, curioso di vedere come sarebbe andato l'incontro del troll e del sole. Il vecchio non si mosse. Il suo sinistro viso di ghiaccio era volto a fissare l'astro che del pari, immobile, si limitava a sorridere e a raggiare. Trascorse così un lungo istante. Poi a Nils parve che il troll cominciasse ad agitarsi e a sospirare. Lasciò cadere il mantello di neve e i tre lupi urlarono con minor ferocia. Ma a un tratto il sole lanciò un grido: «Il mio tempo è scaduto!» e rotolò all'indietro uscendo dalla grotta. Il troll allora scatenò i lupi. La tramontana, il freddo e le tenebre si gettarono all'inseguimento del sole. «Scacciatelo!» gridava il troll. «Fate in modo che non ritorni mai più! Insegnategli che la Lapponia è mia!» Nils Holgersson era stato preso da un tale spavento all'idea del sole scacciato dalla Lapponia che si era svegliato con un grido per ritrovarsi disteso sul fondo di una valle montana. Ma dov'era Gorgo? Si alzò e si guardò intorno e scorse un curioso edificio di rami, di pino, eretto su una cengia. «Deve essere un nido d'aquila», pensò, e cavatosi il berretto lo agitò gioiosamente. Aveva capito dove Gorgo l'aveva portato, nella regione abitata in alto dalle aquile e in basso dalle oche selvatiche. Era finalmente arrivato! Tra poco avrebbe rivisto il papero bianco, H e tutte le sue compagne di viaggio. L'arrivo. Nils si mosse alla ricerca degli amici e delle amiche. Tutta la valle dormiva, perché non era ancora spuntato il sole. E subito scorse un nido in cui un'oca selvatica era immersa nel sonno. Accanto a lei un papero, anche lui addormentato, ma in posizione tale da poter reagire al minimo pericolo. Nils non li disturbò e proseguì la ricerca. Sotto un altro ciuffo di canne scorse Nelie, che covava accanto a Colmo, il maschio, e più in là Visi e Cusi, e ancora Ixi e Caxi. Tutti e quattro dormivano ancora. Ma che cos'era quella macchia bianca laggiù? Nils accorse pieno di gioia. Nel nido di canne, Piuma Fina covava accanto a Morten, che anche nel sonno esprimeva la fierezza di vigilare sulla sua mogliettina persino nei fields della Lapponia. Nils, trattenendo a stento la voglia di svegliarlo, proseguì e sopra un rialzo del terreno scorse qualcosa che si sarebbe detto un mucchietto di terra grigia. «Buongiorno, mamma H!» gridò il ragazzo riconoscendola subito. «Che gioia rivederti! Non svegliare le altre, così potremo discorrere un po'!» La vecchia oca corse a lui, lo afferrò, lo scosse, lo accarezzò con il becco, lo scosse ancora e Nils la baciò e ribaciò con effusione e poi le raccontò la sua avventura nello Skansen. «E sai chi ho visto prigioniero laggiù? Smirre, il volpone con l'orecchio mozzo! E sebbene sia stato perfido con noi, mi ha fatto pena. Un giorno il cane Lappone mi ha detto che un tale era venuto allo Skansen a comprare volpi. Veniva da un'isola assai lontana dell'arcipelago di Stoccolma, dove avevano sterminato tutte le volpi e i topi si erano moltiplicati, tanto da farle rimpiangere. Quando l'ho saputo, sono andato da Smir e gli ho detto: domani verrà gente a cercare una coppia di volpi. Non nasconderti e lasciati prendere se vuoi riacquistare la libertà. Smir mi ha dato retta e a quest'ora deve scorazzare libero sull'isola. Ho fatto bene o male, mamma Oka? Avrei fatto altrettanto, approvò Akka. Sono felice che tu mi approvi, replicò Nils. E c'è un'altra cosa che volevo dirti. Un giorno hanno portato allo Skansen Gorgo ed era così avvilito che per farlo fuggire mi è venuta l'idea di segare le sbarre della sua gabbia. Poi però ho pensato che era un pericoloso malfattore che si nutre di uccelli e ho preferito lasciarlo dove si trovava. Che ne pensi, mamma Akka? Che hai avuto torto di far così, rispose lei. Le aquile sono uccelli fieri, che amano la libertà e che non devono essere tenuti prigionieri. Sai che cosa facciamo? Appena ti sarai riposato, andremo tutti e due allo Skansen per liberare Gorgo. Era proprio questo che mi aspettavo da te, mamma Akka, esclamò il ragazzo. Dicono che dopo averlo allevato con tanta fatica non gli vuoi più bene perché è costretto a vivere come i suoi pari da aquila, ma vedo che non è vero. Io adesso vado a trovare l'oca bianca, che ormai sarà sveglia, e se nel frattempo vuoi andare a ringraziare chi mi ha riportato tra voi, non hai che da volare lassù sulla cengia, dove un giorno hai trovato un aquilotto affamato. Osa, la guardiana di Oke, e il piccolo Mats. La malattia. L'anno del viaggio di Nils Holgersson si faceva un gran parlare di due, fratello e sorella, che percorrevano l'intero paese alla ricerca del loro padre. Erano della provincia di Sunnerbo, nello Småland, dove abitavano in una casupola ai margini di una landa sterminata, con i genitori e quattro fratelli e sorelle. Una sera, una povera vagabonda aveva bussato all'uscio e la madre l'aveva accolta, improvvisandole un giaciglio alla belle meglio. Durante la notte la donna aveva tossito senza tregua e l'indomani non era stata in grado di rimettersi in cammino. I genitori dei due ragazzi avevano fatto del loro meglio, le avevano ceduto il proprio letto, l'uomo era andato alla lontana farmacia a comprarle una medicina e i primi giorni la malata si era mostrata aspra ed esigente, ma un po' alla volta si era raddolcita e supplicava di continuo che la portassero nella landa per lasciarla morire. Raccontò che si era aggregata a una tribù di zingari, una vecchia nomade che la odiava l'aveva fatta ammalare e l'aveva maledetta dicendo che la stessa sorte sarebbe toccata a chi l'avesse ospitata. I genitori dei due ragazzi ne furono impressionati, ma non erano capaci di mettere alla porta una moribonda. Poco dopo l'ammalata era deceduta ed erano cominciate le sventure. Uno dei due figli si era ammalato ed era morto a sua volta in breve tempo. E la stessa sorte era toccata a una sorella. E la casupola dove prima regnava l'allegria, perché la famiglia era povera ma non miserabile, s'era fatta silenziosa e tetra. La madre aveva saputo reagire, ma il padre era diventato un altro uomo. Non rideva più, non lavorava più a fabbricare pettini per i tessitori. Se ne stava tutta la giornata con la testa tra le mani, immobile. Quando poi era morto il terzo figlio, aveva preso a farneticare, spaventando i familiari superstiti. Non capiva, diceva, il perché di tante disgrazie. Accogliere la malata non era stata forse una buona azione? Il male era dunque più forte del bene? La moglie aveva cercato di calmarlo, ma invano. Due giorni dopo era morta la figlia maggiore, la sua prediletta. E allora l'uomo aveva perso la testa e se n'era andato. E via lui era entrata in casa la miseria. Dapprima l'uomo aveva mandato un po' di denaro, poi più niente, e la madre con i due figli rimasti si era trasferita nella Scania, dove aveva trovato lavoro allo zuccherificio di Jordberga. Era una brava operaia, tutti le volevano bene e si meravigliavano di vederla così serena dopo tante disgrazie. Ma se le parlavano del figlio e della figlia superstiti, lei si limitava a rispondere: non vivranno a lungo. Ma si sbagliava. La morte aveva portato via lei, e assai rapidamente. Era giunta nella Scania in primavera e già in autunno lasciava un orfano e un'orfana. Prima di spegnersi si era preoccupata per il loro avvenire e aveva ottenuto che restassero nella stanza che tutti e tre avevano abitato e dal momento che avevano un tetto sulla testa non sarebbero di certo morti di fame. Osa preparava dolci, Mats fabbricava oggetti di legno e vendevano i loro prodotti nelle fattorie. A 13 anni Osa ragionava già come una donna. Aveva l'aria grave e riservata di un'adulta, mentre il fratellino era allegro e ciarliero, diceva lei, come le oche quando starnazzano senza posa nei campi. Erano da un paio d'anni a Jordberga quando una sera alla scuola era stata tenuta una conferenza. L'oratore aveva parlato della tubercolosi, la tremenda malattia che ogni anno mieteva tante vittime in Svezia. Parlava con semplicità e sorella e fratello che erano andati a sentirlo avevano capito ogni sua parola. Finita la conferenza, erano andati dall'oratore, gli avevano raccontato le disgrazie di famiglia e gli avevano chiesto se a suo giudizio i fratelli, le sorelle e la madre fossero morti della malattia da lui descritta. L'uomo aveva risposto che era probabile. Allora, avevano soggiunto i ragazzi, non era vero che la vecchia vagabonda aveva gettato un maleficio su di loro? Il conferenziere l'aveva escluso nel modo più assoluto. I ragazzi, tornati a casa, avevano confabulato a lungo. Il giorno dopo avevano annunciato che quell'estate non avrebbero custodito le oche perché dovevano partire. E per dove? Alla ricerca del padre, che forse era ancora in preda alla disperazione perché credeva che la sua famiglia fosse vittima del malocchio. Per prima cosa erano andati alla loro casetta nella brughiera e l'avevano trovata che bruciava. Si erano recati allora al presbiterio, dove avevano saputo che un tale, un operaio delle ferrovie, aveva visto loro padre in Lapponia, sul Monte Malm, dove lavorava nelle miniere. E quando il pastore aveva saputo dell'intenzione di fratello e sorella, aveva mostrato loro su un atlante quanto era lungo il viaggio. Osa e Mats non si erano lasciati dissuadere. Avevano racimolato qualche soldo con il loro piccolo commercio, ma avevano deciso di non spendere la somma andando in treno. Il viaggio l'avrebbero fatto a piedi. Erano andati a comprare qualcosa da mangiare in una fattoria, avevano raccontato la loro storia e avevano avuto l'indirizzo del fratello della Massara che abitava in un villaggio del comune vicino. Erano stati bene accolti da costui, che li aveva inviati a un'altra fattoria dove contava amici e ogni volta che lasciavano una casa ricevevano sempre la stessa esortazione: passate per la fattoria del tale o della tal'altra e raccontate quel che vi è accaduto. E dove maschio e femmina facevano tappa, quasi sempre trovavano un malato di petto. E allora mettevano in guardia la gente contro la terribile malattia, insegnando il modo di combatterla. Tanto, tanto tempo fa, secoli or sono, quando la terribile peste, quella che veniva detta morte nera, devastava il paese, si era sparsa la voce che una bambina e un bambino andavano di casa in casa e che il maschietto portava un rastrello e se rastrellava davanti a una casa significava che molti degli abitanti di essa stavano per morire, ma non tutti, perché il rastrello ha denti radi e non porta via tutto. La ragazzina aveva una scopa e se scopava davanti a un uscio significava che tutti gli abitanti della casa sarebbero morti perché la scopa spazza tutto. Ma Osa e Mats non spaventavano la gente con la scopa e rastrello, anzi dicevano: non basta rastrellare la corte e spazzare il pavimento, bisogna adoperare acqua e lisciva, spazzola e sapone e tener pulito davanti a casa e dentro casa e pulito il nostro corpo e finiremo per avere la meglio sulla malattia. Il funerale del piccolo Mats. Il piccolo Mats era morto. Pareva incredibile a tutti coloro che l'avevano visto allegro e in buona salute solo poche ore prima. Proprio così, il piccolo Mats era morto e stava per essere seppellito. Era spirato al mattino prestissimo. Solo la sorella Osa era presente e l'aveva visto morire. «Non andare a chiamare nessuno», aveva detto Mats sentendo avvicinarsi la fine. E la sorella aveva obbedito. «Sono felice di non morire della malattia. E anche tu, vero, Osa?» E siccome la sorella tardava a rispondere, aveva soggiunto: «Non mi importa di morire, ma dal momento che non muoio come la mamma, i fratelli e le sorelle, perché in tal caso non potresti persuadere papà che si tratta di una malattia come tante altre. Adesso invece ci riuscirai». Quando tutto fu finito, Osa rimase a lungo a riflettere sulle sofferenze che al piccolo Mats erano toccate in vita e si diceva che aveva sopportato tutto con il coraggio di un adulto. Anche le sue ultime parole erano state intrepide e quindi sarebbe stato giusto seppellirlo con gli onori che si rendono a un adulto. Osa, la piccola guardiana d'oche, si trovava in quel momento lontanissima, nel nord, tra le grandi miniere del Monte Malm, un luogo strano, ma forse per questo più adatto a quel che voleva ottenere. Il piccolo Mats e lei avevano attraversato boschi sterminati. Per giorni e giorni non avevano visto né campi né masserie, tutt'al più qualche povera stazione di posta. E all'improvviso si erano trovati alle porte del grosso villaggio di Gällivare, che con la sua chiesa, la stazione, il tribunale, la banca, la farmacia, l'albergo, sorgeva ai piedi di una montagna ancora zebrata di neve. Era la vigilia di San Giovanni, e se non avessero visto la neve sui declivi e le betulle ancora prive di foglie, i fratelli non avrebbero mai creduto di trovarsi in Lapponia. Ma non era lì che dovevano cercare il padre, bensì sul Monte Malm, a nord di Gällivare, in luoghi ben più selvaggi. Da un pezzo si sapeva che a Gällivare c'erano grandi miniere di ferro, ma soltanto l'arrivo della ferrovia aveva dato modo di sfruttarle e allora, a Gällivare, erano piovute migliaia di persone. Non mancava il lavoro, mancavano le case ed erano state costruite in gran fretta capanne di tronchi d'albero rozzamente sgrossati o addirittura fatte con le casse vuote della dinamite. Adesso c'erano anche graziose casette, ma il terreno attorno rimaneva incolto e arido. C'erano la ferrovia e la luce elettrica. Grandi stabilimenti industriali scaricavano i fumi in cielo e si poteva penetrare con la tranvia nelle viscere della montagna, andando per gallerie illuminate a giorno. Intorno, però, era l'immenso deserto selvaggio dove solo i Lapponi possono vivere con le loro renne. Giunti sul Monte Malm, i ragazzi avevano chiesto in giro notizie del padre. Lo si riconosceva facilmente, spiegarono, dalle grosse sopracciglia unite alla radice del naso. E avevano saputo che, dopo aver lavorato a lungo da quelle parti, era ripartito, ripreso dalla sua ossessione. Tutti erano persuasi che sarebbe tornato e, visto che loro due erano i suoi figli, potevano intanto abitare nella sua capanna. Nessuno era sorpreso di vederli arrivare, né delle lunghe assenze del padre. Da quelle parti ognuno badava soltanto ai fatti suoi. Osa sapeva che tipo di esequie desiderava per il fratellino. Un caposquadra era morto la domenica precedente e il direttore delle miniere aveva prestato i suoi cavalli per il carro funebre. E questo era stato seguito da un lungo corteo di operai e sulla tomba i membri di una società corale avevano intonato canti. E finite le esequie, tutte erano state invitate a prendere una tazza di caffè. Osa avrebbe voluto qualcosa del genere per Mats. Non si preoccupava della spesa. Con i loro risparmi poteva pagare un funerale di prima classe. Ma è così difficile imporsi quando si è piccoli. Provò a parlarne con l'infermiera, sorella Hilma, giunta alla capanna poco dopo che Mats era spirato e che prevedeva la sua fine perché sapeva che il giorno prima il ragazzo, accostatosi troppo a un pozzo minerario nel momento in cui brillavano le mine, era stato investito da pietre ed era rimasto a lungo a terra svenuto. L'avevano trovato quando aveva ormai perso troppo sangue per sopravvivere. Osa pregò l'infermiera di aiutarla a fare in modo che Mazza avesse una degna sepoltura e persuasa che per la poverina fosse una consolazione pensare al funerale, sorella Hilma decise di darle una mano. La donna ottenne non solo che gli operai assistessero la domenica successiva alle esequie del piccolo Mats, ma anche che si suonasse e cantasse davanti alla tomba. Il tempo volgeva al bello e fu stabilito che il caffè lo si sarebbe preso all'aperto. Panche e tavoli sarebbero stati prestati dalla società di temperanza per la lotta contro l'alcolismo. Mogli di minatori offrirono le tovaglie. Per tutto il Monte Malm non si faceva che parlare del funerale di Mats e il direttore, quando seppe che più di 50 operai avrebbero seguito il feretro di un ragazzetto di 12 anni, che oltretutto era solo un piccolo vagabondo, trovò che era un'idea pazzesca. Il canto e la musica, il caffè, persino i dolci ordinati a luleo. Mandò a chiamare l'infermiera e le disse che non bisognava permettere che la ragazzina dilapidasse così il suo poco denaro. Sorella Hilma dovette ammettere che la pietà aveva avuto in lei il sopravvento sul buonsenso e si recò da Osa per distoglierla dal suo proposito. Le pesava dirglielo, ma strada facendo incontrò altre donne cui confidò il suo imbarazzo e quelle approvarono le parole del direttore. La voce si sparse da un capo all'altro del villaggio e tutti si convinsero che il direttore aveva ragione. Una persona fu di parere contrario, Osa. «Bisogna che vada a parlare col direttore», disse Osa. «Si vede che non sa niente del piccolo Mats». E senza ombra di esitazione si avviò alla casa dell'uomo più potente della zona, seguita da sorella Hilma e dalle donne, curiose di vedere come sarebbe andata a finire. Osa procedeva al centro della strada, grave e raccolta come una fanciulla che si avvia alla chiesa per la prima comunione. S'era coperta il capo con un velo nero ereditato dalla madre e in mano aveva un cestino con gli oggetti di legno fabbricati dal piccolo Mats. I ragazzini che giocavano per la strada la riconobbero e si unirono alle donne e all'infermiera. E lo stesso fecero molti operai che proprio in quel momento uscivano dal lavoro e, informati della faccenda, giudicarono Osa tanto coraggiosa che valeva proprio la pena di andare a vedere. Osa giunse all'ufficio del direttore. Nel momento in cui entrava nell'atrio, si aperse un uscio e comparve il direttore, cappello in testa e bastone in mano, che si accingeva a rincasare. Saputo che la ragazzina voleva parlare con lui, rientrò in ufficio. Osa lo seguì. Alzò fieramente la testa, lasciando ricadere il velo, e lo guardò con gli occhi gravi e rotondi di bambina maturata nel dolore. «Il piccolo Mats è morto», cominciò. E la voce le tremava tanto che dovette interrompersi. «Ah, tu sei la ragazzina che vuole un funerale solenne per il fratello», disse benevolmente il direttore. «Non puoi permettertelo, ti costerebbe troppo caro». I lineamenti della piccola si contrassero come se stesse per piangere, ma Osa si fece forza e replicò: «Signor direttore, vorrei raccontarle qualcosa sul conto del mio fratellino. A 9 anni il piccolo Mats è rimasto senza padre né madre e da allora ha dovuto guadagnarsi da vivere come un adulto. Non ha mai voluto mendicare, mai neanche un tozzo di pane. Diceva che non è degno di un uomo chiedere la carità. Ha percorso il paese comprando dai contadini uova e burro che poi rivendeva e i suoi affari li faceva con l'oculatezza di un vecchio bottegaio. D'estate, mentre custodivamo le oche, fabbricava oggetti di legno che sapeva eseguire bene senza che nessuno gliel'avesse insegnato. I contadini della Scania gli affidavano spesso, quando andava da una fattoria all'altra, grosse somme da consegnare, sapendo che di lui ci si poteva fidare. Non è giusto dire che era solo un bambino. Non so quanti adulti sarebbero capaci di...» Osa si interruppe perché le parve che le sue fossero parole al vento. Il direttore teneva gli occhi ostinatamente fissi a terra, senza fare il minimo gesto. Ma come ultima protesta, Osa volle aggiungere: «In fin dei conti pago io. Speravo proprio...» E ancora si interruppe. Il direttore alzò gli occhi e fissò la piccola guardiana di oche, quasi la soppesasse con lo sguardo professionale di chi è abituato a comandare molta gente. Pensò che la famiglia di Osa era stata distrutta, eppure la sua fibra non era spezzata. Che donna forte sarebbe diventata un giorno! Poteva, lui, avere il coraggio di aggravare ulteriormente il fardello già pesante per quelle fragili spalle? Non sarebbe stato il colpo di grazia? E aveva dovuto volere molto bene a Mats, più che a qualunque altra persona al mondo. Come opporsi a tanto amore? «Fa come vuoi», disse finalmente il direttore.